Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda in diretta radiofonica qui dai studi di radio Onde Furlane, come tutti i giovedì dalle ore 20 alle ore 21:30. Ma andiamo con la sigla di questa trasmissione. Bene, questo brano Retribution, The Behind Enemy Lines, è la sigla d'apertura di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda fino alle ore 21:30 da adesso, e siamo in diretta dagli studi di Radio Onde Furlane qui da Udine, e andiamo all'ascolto adesso di questa band milanese. Più volte l'abbiamo passata in questa trasmissione, però magari ovviamente non sempre lo stesso disco, ma ne hanno fatti tantissimi e credo mai abbastanza. Loro sono i Kalashnikov Collective e dal loro EP 12 pollici datato 2012, che si chiama La città dell'ultima paura, ci ascoltiamo un paio di brani. Thank you. Sono le 20:10 di questo giovedì 15 dicembre 2022 su Zardins Magnetics. Un saluto anche dal sottoscritto e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano, gli ascoltatori di Onde Furlane che ci ospita e le ascoltatrici ovviamente. E senz'altro anche gli ascoltatori e ascoltatrici di Radiazione che ci stanno ascoltando in replica. Per questa puntata di Zardins Magnetics, un programma che è realizzato dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e Repressione. Questa sera partiamo con una notizia che... un'iniziativa, un presidio che verrà fatto fuori al Tribunale di Trento martedì 20 dicembre alle 10:30. Ognuno di noi deve dare qualcosa in modo che alcuni di noi non siano costretti a dare tutto. Una frase che in alcune città capita di leggere sui muri e che sottolinea l'importanza di costruire solidarietà e complicità per evitare che a pagare il prezzo siano i più generosi. Coloro che non hanno atteso l'arrivo delle sognate masse per agire contro il futuro di miseria che ci stanno preparando. Da oltre 2 anni Massimo Passamani, compagno anarchico conosciuto da moltissime persone, si trova agli arresti domiciliari per un cumulo di condanne definitive e pur di tenerlo confinato tra le mura di casa, la Procura di Trento non esita a fare ricorso a un uso fantasioso e creativo del diritto, avendo disposto nei suoi confronti una misura cautelare per tentativo di estorsione con finalità di terrorismo. È una notizia che avevamo dato, mi sembra, anche da questi microfoni tempo fa. Quindi ci sarà questo presidio in Piazza Venezia a Trento alle 10:30 per chi riesce a raggiungere la città, insomma. Adesso leggiamo, questo era una, diciamo, una nota scritta su un blog degli anarchici di Bolzano, oltre il ponte. Massimo libero subito, contro la biura e coloro che la pretendono. La vicenda del nostro amico Massimo Passamani, anarchico roverettano e compagno di tante lotte sociali in Trentino e altrove, è emblematica dei tempi che viviamo, agli arresti domiciliari da oltre 2 anni, per un cumulo di sentenze definitive, tra le quali una condanna a 1 anno di reclusione per un'azione contro il TAV in Valsusa. Massimo sarebbe già libero se non fosse stato colpito da una misura cautelare per tentativo di estorsione a finalità di terrorismo. Il motivo: aver tentato insieme ad altri compagni e compagne durante il lockdown nella primavera del 2020 di far mandare in onda a Radio 80 di Rovereto un comunicato di denuncia sui detenuti che in quel momento venivano torturati e ammazzati nelle carceri. Oltre a ciò, il Tribunale di Trento gli aveva già rifiutato la scarcerazione anticipata per non essersi ravveduto ed aver espresso una spinta antistato in un suo articolo sull'archiviazione dell'omicidio Tenny. Tenny, un ragazzo, insomma, ucciso dai carabinieri ad Ala, sempre nei dintorni di Trento, nel 2021. A ciò si aggiunge che a un altro nostro compagno, Rupert, è stata rigettata una misura alternativa al carcere per la sua, virgolette, radicata adesione valoriale all'anarchismo. E con analoghe motivazioni un'altra compagna, Sasha, si trova ai domiciliari con tutte le restrizioni, senza la possibilità di lavorare. Non l'hanno messa in carcere solo perché ha figlie. Il messaggio non potrebbe essere più chiaro: o la biura o la galera. Non lo diciamo noi, ma le carte di tribunale. Ora basta. Mentre sindacalisti occupanti di case vengono arrestati o addirittura condannati per associazione a delinquere, come Piacenza per i Scobas, a Milano per il Giambellino, mentre dei nostri compagni Juan Sorroche, Anna Beniamino, Alfredo Cospito ricevono pene d'ergastolo per azioni che non hanno provocato né morti né feriti, mentre lo stesso Alfredo in sciopero della fame contro la tortura del carcere speciale dell'ergastolo ostativo rischia di morire, il rinchiuso in 41 bis per una strage senza strage attribuita senza prove, mentre l'uso creativo del diritto e i processi in videoconferenza diventano la nuova normalità, non prendere atto di questa situazione sarebbe soltanto cieco. Conosciamo bene Massimo, dalle fratte di Mori ai picchetti alla Bartolini di Rovereto, dalle vertenze nei cantieri e nei supermercati fino alla lotta contro la devastazione ad alta velocità, in tanti e tante abbiamo avuto modo di apprezzare la sua lucidità, il suo coraggio, la sua generosità. Se questo già basta e avanza per dargli tutta la nostra solidarietà, è innanzitutto per noi che dobbiamo lottare, anche per lui. Nell'era delle guerre e delle emergenze permanenti, del controllo sociale sempre più ossessivo e del capitalismo più onnivoro e assassino, ciò che ci giochiamo è la stessa possibilità di lottare, pensare ad alta voce, portare avanti pratiche conflittuali, coltivare il pensiero critico e le idee di ribellione. Per questo, in occasione dell'udienza riesame che questo 20 dicembre deciderà la libertà di Massimo, chiamiamo la mobilitazione. Quindi manifestazione solidale per l'immediata scarcerazione del compagno Massimo Passamani, contro le misure infinite a carico di compagni e compagne e le pretese di abiura, contro lo stato di guerra e emergenza permanente, contro l'immiserimento, controllo sociale e repressione che ne ricevono alimento, contro le condanne d'ergastolo per Juan, Anna e Alfredo, in solidarietà allo sciopero della fame di Alfredo e Anna contro il regime 41 bis e ergastolo ostativo, scusatemi, amiche e amici, compagni e compagni di Massimo. Un piccolo aggiornamento, sì, su Anna Beniamino, prima di lasciare di nuovo un po' di musica. 14 dicembre 2022 Anna Beniamino interrompe lo sciopero della fame. Tramite telefonata apprendiamo che nella serata di oggi, mercoledì, cioè di ieri, Anna ha interrotto lo sciopero. Al termine dello sciopero risulta aver perso 13 kg con una pressione arteriosa di 50 alla minima, 80 alla massima. Alcuni valori del profilo epatico superano i parametri ritenuti accettabili dal punto di vista sanitario. Nell'ultimo periodo le è stato prospettato più volte da parte del carcere il ricovero in ospedale, ricovero che ha sempre rifiutato. In questa lotta è in gioco la vita dei nostri compagni in prigione. A tutti noi anarchici e rivoluzionari spetta il compito di fare in modo che venga salvaguardata. Questo vale tanto più nei riguardi di Alfredo, giunto al 56esimo giorno di sciopero e le cui condizioni si fanno sempre più critiche in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza. We'll be right back. Sì, saluto anch'io tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardins Magnetics. Allora, da parte mia ho pensato di proporre una lettura che riguarda il ricordo, diciamo, di una giornata internazionale contro la violenza che colpisce i lavoratori e le lavoratrici del sesso. Questa giornata è la giornata del 17 dicembre. Io non sapevo personalmente che questa data, insomma, avesse questo significato. E così si è approfondita un po' la questione qualche giorno fa, parlandone con una compagna di un collettivo, il collettivo Ombre Rosse, che appunto è un collettivo composto da sex worker, ex sex worker e alleate, come loro le definiscono. E allora io ho rintracciato nel loro blog, che è ombrerosse.noblogs.org, un volantino del 2016, quindi un volantino di un bel po' di anni fa, però è significativo perché dà l'idea dell'approccio che queste compagne hanno relativamente al lavoro sessuale e alle migrazioni. Infatti le compagne di questo collettivo mettono in collegamento il discorso delle migrazioni, dei confini, col discorso della repressione, del protezionismo, del vittimismo delle donne, ma non solo, che praticano appunto il lavoro sessuale. E questa è una prospettiva interessante, secondo me. Il 17 dicembre del 2016 le compagne di Ombre Rosse hanno deciso di celebrare, diciamo, questa giornata sostenendo un presidio che si svolgeva di fronte al CIE di Ponte Galeria, appunto come atto di solidarietà con le donne migranti rinchiuse in quella prigione, ma non solo, in tutte le prigioni, in condizioni di vita terribili. Allora vediamo cosa ci dicevano le compagne. Siamo un gruppo di sex worker e altre alleate e alleati. Come tali lottiamo contro la violenza contro tutte le donne, cis e trans, buone e cattive, abili e disabili, di ogni nazionalità, classe sociale, età, religione ed etnia. Siamo solidali con tutte le donne che si ritrovano, per circostanze, costrizione o scelta, a vendere sesso per vivere e che resistono non soltanto alla violenza razzista e di genere, ma a tutti i dispositivi di militarizzazione dello Stato e di controllo dei confini che le vittimizzano attraverso leggi sulla protezione. Troppo spesso, dietro la vittimizzazione delle leggi e del controllo delle forze dell'ordine e delle loro violenze, si nasconde la scusa per il controllo dei corpi, per la deportazione o il rifiuto dei documenti, con il pretesto ipocrita di combattere la tratta. Il sistema repressivo e carcerario ha come solo obiettivo il controllo della migrazione e la pulizia delle strade per la tranquillità dei e delle benpensanti, accampando la scusa di liberare le donne dalla schiavitù e dalla coercizione. Sostenere la lotta per i diritti di chi lavora vendendo sesso significa sostenere chi, come la maggioranza dei soggetti nel sistema capitalista attuale, si trova a svolgere attività remunerativa e lavorativa per affrontare condizioni difficili di vita. Chi si ritrova, ad esempio, ad essere madre, spesso single, senza entrate economiche sufficienti, o chi affronta discriminazioni sul lavoro perché è trans, o chi come molti e molte migranti, ma anche italiani e italiani, non ha molte o nessuna opzione per sopravvivere, o anche chi più semplicemente lo vede come la via più veloce per uscire dai debiti. Siamo chiaramente contro ogni forma di abuso, sfruttamento, tratta e coercizione e ci batteremo affinché si ponga fine a ogni tipo di violenza e sfruttamento. Ci battiamo per una politica che includa le voci e i bisogni di chi vende il sesso per vivere, che metta fine alla violenza perpetuata contro di noi con leggi esistenti e che appoggi, sostenga e dia opzioni concrete, diritti, appoggio e documenti a chi deve e vuole migrare per sopravvivere, per cercare una vita migliore e per fuggire da fame e guerra, in solidarietà con le recluse nei CIE. Questo era appunto il volantino del collettivo Ombre Rosse che loro proponevano nel 2016, appunto, come documento su questa giornata internazionale contro la violenza che colpisce le sex worker e i sex worker. E tra l'altro c'è stata un'intervista recentemente anche proprio su Radiazione a una delle compagne di questo collettivo, che potete, visto che siamo in collegamento Zernis Magnetics anche con Radiazione, potete andare a riascoltare un'intervista molto articolata, molto approfondita, insomma, sulle questioni. Questo brano, appunto, come si sente nel ritornello, Ingovernables è il titolo di questo album dei Sin Dios, band spagnola della zona di Madrid, album datato 2000, e appunto Ingovernables e Sin Dios. Seremos sin vomitando fuego, terror y destrucción. La tierra revienta, escupiendo carne. Mira por los tuyos hoy, ¿a cuántos perderás? La guerra ha parecido odio y exterminio, sin entender nada, cada hora un bombardeo. Bene, abbiamo ascoltato un paio di brani dei Sindios dal loro album datato 2000, Ingovernables, band spagnola dagli anni 90 e successivamente band anarcho-punk, credo tra le più note della Spagna a livello internazionale. Comunque ora andiamo all'ascolto di un brano, forse due, di questo split CD dove ci sono ben due le band, i Paint the Town, scusate, Paint the Town Red e Rise and All. Paint by Paint. E non ho detto che comunque questi Painted Town Red, band tedesca di Monaco, e ora ci ascoltiamo un secondo brano. Quando sono le 8:40, quindi di nuovo in voce qui su Zardins Magnetics, vorrei riprendere con voi il ragionamento che si faceva un po' in maniera caotica l'ultima volta, partendo dal discorso della strage di Piazza Fontana. Oggi, tra l'altro, 15 dicembre, ricorre l'anniversario della omicidio, della uccisione di Pinelli, qualche giorno dopo, insomma, la strage. Ma per adesso, così, spaziare nelle ricorrenze, 15 dicembre 76, sempre Milano, la polizia fece irruzione nell'appartamento dove viveva Walter Alasia. E Walter Alasia rispose armi in pugno, uccidendo due poliziotti. Poi si cercò la via di fuga dalla finestra, quando poi, appunto, lì altri poliziotti lo colpirono e rimase agonizzante a terra. Poi, prima dell'arrivo d'ambulanza, è documentato, insomma, che ci fu un'esecuzione anche lì. Non per adesso, per che queste ricorrenze diventino un tormentone, assolutamente no. Però io quello che volevo riprendere è semplicemente un concetto molto semplice, questo. Tante volte tende a pensare che ha delle spinte, delle tensioni così che si diffonde, sono diffuse nella società, poi si sussegua un riflusso come nelle maree, come se fosse un processo così naturale. Invece la cosa va vista, diciamo. Gli anni permettono di vedere la cosa a distanza e ragionarci sopra, e uno dice: ma il riflusso da dove viene fuori? Da dove viene fuori la paralisi? Da dove viene fuori il trauma? No? Allora, se è vero che la bomba traumatizza, no? Come dicevo l'altra volta, la voce che correva durante il funerale, insomma, tra i proletari, così, le proletarie, gli sfruttati, le sfruttate, eccetera, era: questa è per noi, cioè l'indirizzo è verso di noi. Se è vero questo, quindi per creare un trauma, per creare incidere nella coscienza, diciamo, quello che era un terrore di essere, appunto, di essere colpiti indiscriminatamente, in maniera casuale. Allora poi a questo trauma inevitabilmente succede, che cosa succede? Uno si sente bloccato, no? Non sa dove, non sa cosa fa, pensa di qualsiasi cosa che fa succede l'impossibile, no? Qualunque cosa. Quindi c'è la paralisi, no? L'inazione. Allora poi segue il riflusso, e se rovesciamo questa catena viene fuori, insomma, anche a livello storico possiamo farlo, cioè a un livello più generale, più così verticale, quello che è successo in Italia è che magari leggermente di una cosa leggermente diversa da quello che è successo in altri posti, qui allo stesso modo in cui chi protestava nelle carceri nei primi 70, appunto, sono partiti con Sant'Enotar Nicola, con la banda Cavallero, e poi e tutti quelli che venivano sbattuti dentro, così politicizzati, eccetera, tutti quelli hanno portato avanti una serie di lotte e mobilitazioni. La risposta fu molto chiara, quella che fu la strage ad Alessandria, condotta dai carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di cui vi ho già accennato su questi microfoni. In parallelo la stessa cosa è successa anche in scala più vasta, anche fuori, insomma, da parte delle autorità, delle istituzioni, nessuno si volle mai prendere in considerazione le spinte, le contestazioni, in qualche maniera dare una struttura a queste istanze. Insomma, in nessun modo ci fu assolutamente la chiusura, e questa cosa portò, insomma, abbiamo visto la legge reale nel 75, cioè la possibilità, insomma, di estendere la custodia preventiva, l'uso, l'abbiamo detto tante volte questi microfoni, l'uso delle armi per le forze dell'ordine, insomma, in disparate situazioni, e il costituirsi dei corpi speciali come i NOX, ad esempio, che avevano sì anche risorse, dispositivi a loro disposizione, una serie di estese, insomma, possibilità di colpire chi insomma i sovversivi. E il colpo di grazia fu appunto la legge sui pentiti del 1980, dove appunto il primo pentito, Patrizio Peci, fece lui crollare da dentro, diciamo, l'organizzazione, insomma, più principale, insomma, italiana, che praticava la lotta armata, ma insomma cui fecero seguito non credo più di una decina di pentiti. Adesso io dico così a spanne, ma non penso che fossero questi pentiti centinaia, ecco, dopo appunto colpendo a morte, in sostanza, insomma, un movimento di migliaia di militanti e di che avevano impugnato le armi. E questo è un po' il discorso, insomma, dell'altra volta. E, insomma, sono trascorsi tanti anni, e ogni volta che si verifica uno scontro così diretto con le forze dell'ordine, con lo Stato, con i suoi apparati, ogni volta purtroppo succede che magari anche in buona fede si tende a non diciamo a non sì, a, a si tende a rifare emergere questo spirito di questa spaccatura, questo spirito di, diciamo, di rassegnazione, questo riflusso da cui, appunto, che non nasce da sé ma che è indotto da una situazione pesante, repressiva, è una situazione, insomma, che inibisce ogni tipo di di ribellione, insomma, di dire basta, di dire fermatevi, eccetera. E quindi un esempio eclatante di questo fu in particolare 20 anni fa a Genova, insomma, ma poi la cosa ha dovuto aspettare almeno una decina d'anni per rimarginarsi, insomma, si è dovuto ritrovarsi in piazza nei cosiddetti indignados nel 2011, oltre luglio in Val di Susa, Chiomonte, sempre 2011, dove appunto lì si è ricompattata un po' la solidarietà e si è riusciti a un po' di prendere riuscire a difendersi da questo meccanismo, questa tenaglia che colpisce appunto dall'interno il movimento, perché nell'interno del movimento emergono queste distinzioni tra moralistiche, non so, sull'uso sul colpire, insomma, con i mezzi appunto che possono essere non condivisibili, ma un conto è questo, un conto è schierarsi contro chi passa, insomma, a contestare le cose per le vie di fatto. E c'è anche da dire un'altra cosa, che probabilmente in questi sono gli anni in cui ormai figure di mediazione come sindacati e partiti, rispetto anche a 10 anni fa, sono completamente saltate. Cioè, il fatto che si arrivi nel 2022 addirittura a portare in tribunale un sindacato legalmente riconosciuto come Sicobas, accusarlo di associazione delinquere, cioè vuol dire che proprio il potere giudiziario, che sembrerebbe un'emanazione, insomma, di un altro potere, di un'altra, anche di non più di un'istituzione, ma direttamente della Confindustria, non so. Quindi queste figure sono saltate completamente. Però c'è anche il fatto che da qui, dove sarebbe da noi, sarebbe il cosiddetto mondo, diciamo, progredito tecnologicamente, non è che non esista più il proletariato, però è sparito ed è stato sostituito da una classe di una classe difficilmente definibile, priva di coscienza di sé, che appunto dove proliferano i conflitti, sì, la guerra fra i poveri, ma questi sono nonostante tutto palliativi che saranno efficaci, ma di cui non si vede granché la durata. Insomma, Alfredo Cospito, che è al 56esimo, 57esimo giorno di sciopero della fame per questa, insomma, misura spropositata di 41 bis che cui è stato condannato, porta avanti questa lotta, insomma, per lui, ma anche per, diciamo, ovviamente per mostrare l'inconcepibilità di questo, insomma, dispositivo. Nelle sue considerazioni, le sue riflessioni, i suoi contributi che ci ha dato da quando era, insomma, quando poteva farlo, dice appunto che, cioè, secondo lui sono il ruolo di pompieraggio di questi partiti, di questi sindacati, è finito, insomma, è stato completamente sostituito dalle armi di distruzione di massa, no? Che sono razzismi e sovranismi cosiddetti, no? però è una strategia che non può durare, no? Che ha al tempo contato, e in questa situazione inevitabilmente si reinseriranno gli anarchici, perché la proposta, insomma, dell'informalità e dei gruppi di affinità e di metodi per organizzarsi non sono, anche qui, non sono un adattamento alla ristrutturazione capitalistica, no? Lo stesso meccanismo che avevamo così accennato poco fa, insomma, sul riflusso, anche qua al contrario ci sono mezzi di lotta messi a punto fin da Carlo Cafiero, con la propaganda, col fatto, che sono sempre stati alla base dell'agire anarchico, e paradossalmente, ma non tanto paradossalmente, si ritrovano oggi ad essere più al passo coi tempi di tante altre armi spuntate. Io ci tengo, insomma, anche stasera a dare per quello che posso, insomma, portare la parola di Alfredo Cospito, che in questo momento è, ricordiamolo, è imbavagliato completamente dallo Stato. Ci sono anche, fra poco magari ne parleremo, la chiara volontà da parte dello Stato di non voler far venire fuori sta storia, di non dare in tutti i modi, insomma, spazio ai discorsi portati avanti, ai ragionamenti portati avanti da anche da Alfredo, insomma, e molti altri, ecco. Quindi sicuramente su questa cosa anche noi per quello che possiamo fare, insomma, non molleremo la presa. Stiamo ascoltando intanto questa band di Udine, loro sono i Vivere Merda, da questo loro 12 pollici EP datato 2020, che si intitola Noi non ci saremo. Yeah. credo risuonerà. Catene, i monti, coperte, di neve, saranno confine a foreste, diabeti, mai hanno tua madre toccherà e sarà dietro, come il sonaglio si spenderà. Sì, ritorniamo in voce e appunto, come ha detto chi mi ha preceduto, è importante per come si può dare voce ad Alfredo e non solo a lui, ad Alfredo, ad Anna e a tutte le prigioniere e prigionieri che si trovano in questo momento colpiti in questo modo infernale dalla repressione. E a questo proposito, oggi giovedì 15 dicembre a Trieste si è svolta un presidio, insomma un'iniziativa appunto solidale con Alfredo e contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. E anche qui abbiamo già fatto anche qui in Friuli diverse iniziative di questo tipo. La prossima sarà sabato 17 dicembre, quindi tra due giorni, davanti al carcere di massima sicurezza con sezione di 41 bis di Tolmezzo. Appunto faremo un presidio solidale con tutti i detenuti contro 41 bis differenziazione ed ergastolo a fianco appunto di Alfredo. Ribadisco, in sciopero della fame a oltranza ormai da 65-66 giorni e, sì, dal 20 ottobre comunque, insomma. Allora, a Tolmezzo sono almeno 10 anni che andiamo a manifestare e ci sono stati dentro questa galera, ci sono stati diversi compagni che sono stati detenuti, compagni impegnati nelle lotte contro il TAV, contro i lager per persone immigrate, contro le strutture del militarismo in generale. E insomma, in questi anni siamo andati quindi molte volte a quel carcere e comunque sempre abbiamo portato avanti anche il discorso contro il 41 bis e abbiamo anche dato la nostra solidarietà e il nostro sostegno a prigionieri non politici che comunque hanno sempre lottato contro le condizioni carcerarie e anche hanno sempre accettato di testimoniare e di agire contro i soprusi e le violazioni e gli abusi di potere dentro quella galera. Il carcere di Tolmezzo è un carcere, tra l'altro, di cui, vabbè, tutti, ma nello specifico in questa regione, è un carcere in cui non si deve del quale non si deve parlare pubblicamente. Infatti, se lo si fa e se si dà voce alle persone che vi sono rinchiuse, si finisce in tribunale, appunto, come è il caso di due nostri compagni dell'assemblea. E appunto ci sono questi processi per diffamazione e istigazione per aver denunciato quello che succede tra quelle mura. Vabbè, comunque del 17 dicembre torneremo a dire dopo. E adesso invece, se c'è una compagna della Buriana di Trieste in onda, parliamo appunto dell'iniziativa di oggi di Trieste. Ci sei? Sì, ciao. Sì, ciao, ciao. Allora, come è andata la giornata di oggi? Oggi però c'è stato chiamato un presidio. Sì. 41 bis in solidarietà alla lotta che sta portando avanti Alfredo e gli altri che sono uniti allo sciopero della fame, anche se non l'hanno finito. Sì. E pioveva, quindi non era proprio il clima ideale, però in una cinquantina di persone, forse un po' di più, Abbiamo ci sono stati vari interventi che si sono seguiti, leggendo le dichiarazioni di inizio sciopero della fame di Anna, le dichiarazioni dei al processo di Alfredo e anche di Anna, ed è stata allestita una mostra contro il 41 bis. Niente, quindi è stato un momento per raccontare in piazza, anche vicino ai mercatini di Natale, quindi in questa atmosfera che nega qualsiasi orrore che avviene in questo paese, è stato un momento per ricordare quello che sta succedendo e per portare l'attenzione sul 41 bis e sulla non presa di posizione rispetto al suo declassamento da quel regime, del regime per Alfredo. Certo. E la reazione delle, hai detto appunto questa cosa dissonante, diciamo, rispetto al in piazza vicino ai mercatini di Natale, le persone tra virgolette normali come hanno reagito alla proposta del presidio? Allora intervengo io, che sono con Francesca, che ero sì. al presidio, ovviamente c'è un clima generalizzato di indifferenza che abbiamo trovato anche nel salotto buono della città, che abbiamo provato in qualche modo a disturbare, nonostante tra l'altro anche i tentativi della questura di spostarci completamente fuori dal centro. Luogo esatto che potesse essere in qualche modo comunicativo anche rispetto ad altre persone. E ovviamente la situazione non è, come diceva Francesca, per le condizioni climatiche, quindi eravamo con la pioggia battente, di passanti non ce n'erano così tanti, diciamo che il presidio di per sé si è risolto anche in una presenza tutto sommato simbolica ma importante. Per noi era fondamentale comunque prendere parola rispetto a quello che sta accadendo anche a Trieste, portare una voce. Ovviamente l'idea era fare appunto una mostra e degli interventi con un impianto che permettesse di arrivare un po' a tutti i passanti, per interrompere, diciamo così, il momento dello shopping natalizio e fargli sapere che c'è una persona nello specifico e poi ce ne sono 700 altre in una condizione di tortura fondamentalmente. Questo compagno è in lotta e è in sciopero della fame da diversi giorni, diciamo che ci avviciniamo anche verso un punto critico e quindi l'obiettivo era comunicare il più possibile rispetto a questa situazione. E sì. Quindi insomma, cioè, di per sé il presidio perlomeno ha portato una voce che altrimenti sarebbe del tutto ha mosso qualcosa. Ha mosso qualcosa, sì, ha portato più che altro le parole di Alfredo, di Anna, di altri detenuti, parole che altrimenti non avremmo potuto ascoltare altrove, e quindi abbiamo cercato un po' di rompere questo muro che non è appunto solo un muro materiale, ma anche un muro che determina un silenzio assoluto sulla vicenda, a parte qualche rara incursione anche, diciamo, nella stampa mainstream. Comunque è importante, secondo me, anche se le condizioni, appunto, dicevate della pioggia, quindi del un po' di difficoltà a raggiungere magari un numero considerevole di persone, però è importante fare queste iniziative anche se non si è in tanti, no? Cioè è importante anche per tenersi vicini, diciamo, tra solidali e tra compagni e compagne. Sì, non è una roba scontata, cioè anche il fatto di trovarsi comunque in luogo pubblico, diciamo, e rimanere uniti su queste faccende così, così importanti, su quella faccenda della repressione e della negazione anche della possibilità della parola, no? Che viene data, appunto, negazione che viene esercitata in questo momento in maniera così efferata su Alfredo, secondo me è importante anche se non si è in tanti, ecco, anche se non ci sono le folle, però comunque queste presenze sono significative. Siamo d'accordo. Proveremo in qualche modo a riproporre probabilmente l'iniziativa anche in altre condizioni, per essere giusto un po' più comunicativi, e E insomma restiamo anche abbastanza in attesa e in preoccupazione anche per quello che sta accadendo là dentro. Infatti. E rimaniamo, come dire, preoccupati, in allerta e anche mobilitati per quanto c'è possibile. Certo, e si può anche pensare di fare qualcosa insieme. Assolutamente. Tra Trieste e il Friuli. Bene, Di sabato, ovviamente. Sì, io appunto prima non so se voi eravate già in ascolto, comunque ha annunciato intanto il presidio che ci sarà Tolmezzo, a cui siete chiaramente invitati. E boh, non so, c'è qualcos'altro che volete dire? Siete riusciti a mandare anche i contributi audio? Come? Siete riusciti a mandare contributi audio? Ma ci siamo cimentati in diverse letture, quindi non c'è stato neanche tempo di dei contributi audio. Mm-hmm. No, forse una cosa da aggiungere è che a prescindere da tutto speriamo che questa attenzione che si è risvegliata sul 41 bis riusciamo ad incanalarla in qualcosa che ci porti alla sua distruzione, al suo annientamento in maniera completa, certo. A prescindere anche da come andranno, si esprimeranno rispetto ad Alfredo ed in generale, che almeno speriamo di riuscire ad essere all'altezza di portare questa lotta fino alla fine. Infatti, speriamo. Bene, allora grazie di questo spazio. No, grazie a voi di essere intervenuti. E niente. Allora ci salutiamo e ci vediamo a Tolmezzo con chi può. Benissimo, grazie. Ok, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. E stiamo ascoltando questa band inglese, i Sacrilege, band che è nata nell'84 e poi si è sciolta dopo circa 5 anni, però nel frattempo, tra l'altro, questo disco che noi stiamo ascoltando raccoglie le loro demo tapes, proprio le cassette che fecero tra l'84 e l'86, e poi comunque già musicalmente si può ascoltare questo stile metal. Ebbero poi questa virata heavy metal, però che decretarono per loro un enorme successo. Comunque, band che si è riformata recentemente, loro sono i Sacrilege. Allora, prima di rilanciare il presidio di sabato 17 dicembre a Tolmezzo, al carcere di Tolmezzo, vi do i nostri contatti. Allora, la mail dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste, la mail è liberetutti@autistiche.org. Se invece volete scrivere con carta e penna, potete inviare, e quindi anche se ad esempio se ci sono delle persone recluse in qualsiasi istituzione totale all'ascolto, ma anche se ci sono persone che conoscono persone recluse e che magari vorrebbero raccontarci come stanno vivendo, si può scrivere a Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, 34121 Trieste. Poi, se volete riascoltare questa trasmissione, ma non solo questa, anche le precedenti, tranquillamente, insomma, in un momento diverso dalla diretta, potete farlo andando sul blog zardingsmagneticsradio.noblogs.org. Allora 21 e 23 di giovedì 15 dicembre, prima degli ultimi brani musicali e dei saluti, ribadisco l'appuntamento di sabato 17 dicembre, a partire dalle ore 14:30 ci sarà a Tolmezzo, davanti al carcere di massima sicurezza con sezione di 41 bis, un presidio solidale con Alfredo e con tutti i detenuti contro il 41 bis, contro la differenziazione e contro l'ergastolo. E sì, invitiamo insomma tutte le persone che sono contrarie alla morte di Stato e alla repressione e che non accettano di piegare la testa e di stare zitte a partecipare a questa iniziativa. E niente, io intanto vi saluto, alla prossima. Bene, abbiamo ascoltato questa band inglese, loro sono i Sacrilege, band che si era formata nel lontano 1984 in quel della Gran Bretagna, e questi noi abbiamo ascoltato da questo doppio album che raccoglie il loro demo tape tra l'84 e l'87, che è album che si intitola It's Time to Face the Reaper. E quindi passiamo ora invece così sul finire a questa band dal Belgio, che non è altro che l'altra band dello split CD che abbiamo ascoltato in precedenza, ovvero la band di Monaco Paint the Town Red. E ora andiamo ad ascoltarci questi ultimi due brani dei Rise and Fall, band belga, CD split uscito nel 2003. Bene, ciao a tutti e a risentirci al prossimo giovedì.